Radio 24 Day. Sono le 7:20 minuti, qua c'è gente che balla in studio. Abbiamo cambiato la sigla, forse c'è un certo disorientamento. Intanto c'è Oscar Giannino in studio a fianco a me. Che succede, Oscar Giannino? Succede, buongiorno. Senti, buongiorno, che questa sigla vuol dire che siccome sono giorni un po' particolari, allora questi due giorni Radio 24, tutti noi facciamo una specie di remix di Shaker perché ci mettiamo al servizio dell'ascoltatore. Ecco appunto. Tenete le mani sul volante, No, perché bisogna dirlo, Oscar, qua ci ascoltano mentre sono in macchina. Allora, il primo dei due Radio Days, Radio 24 Days, dedicati a che cosa? Alla crisi, declinata in tutti i suoi 360 e forse oltre gradi. Infatti non a caso gli aveva messo una musica che ballavano mentre c'era la guerra, però poi ricostruzione se ne esce, il messaggio vuole essere questo. E certo, appunto, ecco, macerie ma poi si rinasce. Oggi e domani con anche Oscar Giannino dalle 7:20 quest'ora fino alle 9:10 andiamo avanti tutto il giorno, tutta la programmazione di Radio 24, tutto il palinsesto dedicato a questo. Ci saranno anche dalle 13 credo, dopo Deborah Rosciani, degli dopo esperti Salvatore, che potranno rispondere alle domande di tutti gli ascoltatori per sapere come fare su pensioni, case, IMU, batteria di aggravi fiscali, pensioni. Non si paga l'IMU. Non si paga l'IMU. No, perché questo, leghista, attenzione, questi sindaci leghisti, non sviamo subito perché sennò la gente spera mentre guida. No, non sarà così, dovrete pagare. I leghisti non pagano. I sindaci leghisti non fanno pagare e poi faranno pagare. Vabbè, che faranno pagare. E allora noi avremo tanti ospiti a partire dalle 8:30, ci sarà il direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, ma poi tanti altri ospiti, non voglio svelare tutto. Intanto Oscar, giusto per continuare la tradizione, iniziamo a declinare la crisi dalla lettura dei giornali. Intanto salutiamo il nostro Peter Bescapè, il nostro alpino che sta in regia. E allora dalla lettura dei giornali? Ma sì, dai, tuffiamoci subito nella lettura dei giornali. Vuoi qualche titolo, Oscar, che così poi Intanto diciamo insomma che questa la polemica sull'articolo 18 e sulla riforma che deve arrivare qua sul mercato lavoro è quella che si becca i maggiori titoli di apertura. Sì, infatti, basta, io ieri lo dicevo, basta toccare l'articolo 18 e prendi la scossa. Sull'articolo 18 è subito scontro, così apre il Sole 24 Ore. Articolo 18 spacca tutto, così il Fatto Quotidiano. L'Unità no, punta su altro, sull'IMU. Corriere sempre sullo stesso tema, dice Fornero reagisce accusa contro di me il linguaggio di un brutto passato, e c'è un Pierluigi Battista che dice vecchia formula del nemico di classe. Sì, mentre il Manifesto 18 dopo Cristo, questo è il titolo, come una miccia nella polveriera della crisi, sull'articolo 18 esplode il conflitto di governo e Confindustria coi sindacati. Ma l'articolo 18, poi cosa c'è? L'IMU, l'ICI, i sindaci leghisti che intendono non pagare, questo non c'è dubbio. Intanto Oscar, vorrei farti due riflessioni dal mondo della casta. Perché c'è crisi ma non per tutti. Le leggo dal Giornale a pagina 3. Alla Camera il privilegio è di casa. Stavolta i commessi. Ci sono commessi da 9.000 euro al mese. Il guadagno medio del dipendente della Camera 155.985 euro lordi l'anno, 6.000 al mese netti. Facci un pensierino, voglio sperare vita. Sempre sull'economia. Lezione spagnola, dicono in prima pagina i colleghi del Giornale. Il vice direttore Nicola Porro commenta: sì, lì hanno votato in Spagna, però fanno una manovra a differenza dei nostri tecnici, che tutta tagli di spesa e niente tasse. Peccato che da noi non si potesse votare, perché chi aveva promesso i tagli delle tasse in realtà non le aveva fatti. Questo è l'argomento aggiunta mia, Nicola Porro. Non so, tagliamo dai commessi della Camera, cominciamo. 9.000 euro al mese. 9.000 euro al mese. Lo stenografo guadagna sfiora i 260.000 euro l'anno. Lo stenografo, per carità. Cioè, vabbè, la professione è diventata rara oramai, questa va preservata. Lo stenografo. Non c'è crisi anche per il Lazio, la regione Lazio, dove persistono. Io ho chiamato varie volte il presidente del consiglio della regione Lazio abruzzese, così fa di cognome, e ha detto toglieremo i monogruppi, perché lì in Lazio c'è questa cosa dei monogruppi. E invece? I gruppi formati da uno, ma pensa quando si riuniscono, Oscar, i monogruppi, perché prendono l'indennità da monogruppo, cioè il gruppo misto, formato da una persona. Beh, guarda che di solito i parlamentari hanno anche dialettica interna, dissentono da se stessi. No, invece ha detto li toglieremo, li hanno tolti, ma dalla prossima legislatura. No, soprattutto la formula è questa: li toglieremo e verranno sciolti quei gruppi che nel corso della legislatura si sono ridotti da 3-1. Vedi? A quelli che sono uno dall'inizio, quelli hanno il diritto di rimanere. È una comica. Comunque, sempre dal Messaggero, intervista del sindaco Alemanno contro i sindaci lombardi che sono per non far pagare l'IMU. Protesta inaccettabile, dice Alemanno. Con i lombardi, alleanza chiusa. Una doppia assurdità chiedere di non pagare l'IMU, perché l'IMU è un'invenzione dei ministri Tremonti e Calderoli, dice Alemanno, in pieno governo Berlusconi, e quindi fu Calderoli a chiamare i sindaci a dirci che sarebbe sparita del tutto l'ICI e sarebbe apparsa l'IMU. La seconda assurdità è che non pagare è un reato, questa è l'opinione del sindaco di Roma. Ma infatti diciamo che c'è crisi, allora facciamo così, fermiamoci qualche minuto, poi ripartiamo, ovviamente sempre dalla lettura dei giornali, poi avremo ospiti, come avete capito c'è qui Oscar Giannino, staremo insieme fino alle 10, poi si continuerà nel palinsesto di Radio 24 dedicato al tema della crisi, e partiremo sempre dall'approfondimento dei giornali, qualcosa di più sull'articolo 18, magari torniamo su questa cosa dell'IMU, ICI, la rivolta fiscale. Guarda il titolo della Padania, però non lo dico agli ascoltatori, lo faccio vedere solo a te. Però no, perché decide il Parlamento Padano. Vabbè, no, diciamo rivolta fiscale, decide chi deciderà? Il Parlamento Padano. Ecco, tra poco. Radio Day speciale crisi. Eccoci qua, allora sono le 7:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan con Oscar Giannino. Eccoci fino qua. Alle 10 staremo, ma poi tutta la programmazione, il palinsesto di Radio 24 oggi e domani è dedicato appunto, come avete sentito dalla sigla particolare, alla crisi. Allora Oscar, siamo alla lettura dei giornali, vogliamo proseguire con qualcosa? Prima di arrivare sull'articolo 18 vorrei sottoporti, così magari ci dai un tuo commento, l'articolo che Franco Bechis, vale a dire il vice direttore di Libero, scrive a pagina 4: più tassi, meno incassi, lo dice anche il governo, sarà recessione. Dunque, dice e scrive Franco Bechis, c'è un documento firmato dal viceministro dell'economia, peraltro un documento dunque del governo Monti, il viceministro Grilli, è la relazione concernente gli effetti di correzione degli obiettivi della manovra finanziaria per il triennio 2012-2014, è fatto soprattutto di tabelle analizzate a fondo da tecnici, e che cosa si certifica? Che effettivamente la cura Monti fatta di tasse porta alla sarà recessione. Ecco, Libero attacca, cos'è, un attacco di parte se vogliamo, oppure questo documento, che documento è, un documento importante? No, un documento importante perché fa parte della batteria di valutazione degli effetti che la manovra fortemente squilibrata dal punto di vista delle tasse ha sul ciclo economico, e in effetti da questo punto di vista Libero è tutto interessato ovviamente a amplificare l'effetto, e tanto è vero che il titolo di apertura del Libero di oggi è altro che tagli, ci tasse e sume statale, il governo prepara concorsi per insegnanti e forestali, erano i concorsi peraltro che si era già impegnato il governo. Certo. Precedente, non è questo, però che nel deterioramento molto rapido della crisi europea manovre tutte spostate sul taglio del rigore abbiano l'effetto di accelerare l'effetto di recessione, questo è un fatto, è così, quindi, ed è uno dei punti interrogativi del meccanismo dell'euroaccordo dell'8 dicembre, se non ci porti ancora più rapidamente alla crisi, il grande punto interrogativo su cui scommettono i mercati è proprio questo. E soprattutto su quella domanda che si pone Libero, ma ho visto che anche Silvio Berlusconi l'ha detto, ci vorrà questa seconda manovra, la manovra bis, il ministro Passera ha smentito domenica in TV, però insomma questa è la domanda che ovviamente aleggia. No? Ed è una domanda che a sua volta è fondata, perché il caso greco ci dice che il susseguirsi di manovre recessive fa decrescere il PIL così tanto che di solito non si raggiunge l'obiettivo di risanamento a breve. Quindi il problema sarà quello di un'euroarea che capisca che quanto più rapidamente si deteriora con il solo rigore l'economia reale, più meno credibili siamo tutti. Allora, dai giornali, come abbiamo detto, la maggior parte dei quotidiani apre su questa diatriba suscitata dall'intervista del ministro Elsa Fornero al Corriere, la risposta di Susanna Camusso a CGIL con toni molto duri, il tema è l'articolo 18. Articolo 18, scontro sindacati Fornero, così titola il Sole 24 Ore, pagina 7, con CGIL, CISL, UIL e UGL che dicono quella norma non si tocca. Il ministro Fornero che ha detto il mio è un invito al dialogo, tra l'altro vi segnalo che il Sole 24 Ore propone un'intervista al senatore Pietro Ichino del Partito Democratico, che sottolinea come sia importante la riforma del lavoro, come non è vero che questa riforma sia un attacco all'articolo 18, perché dice Ichino che tutti gli elementi, tutti i diritti acquisiti dai lavoratori non si toccano, semmai la riforma del lavoro andrà a toccare le persone che entrano nel mercato del lavoro nel momento in cui entra in vigore la riforma. Però Oscar, prima di sottoporti un paio di commenti e anche una vignetta un po' dissacrante di Vauro, vorrei chiedere perché su questo articolo 18, anche tu hai visto sui giornali, appena si tocca si prende la scossa. Cioè, perché è uno dei classici punti in cui l'ordinamento italiano, che per troppi anni ha rinviato nel mercato del lavoro un adeguamento a come era davvero il mercato del lavoro, dove, ripetiamo a chi ci ascolta, la maggioranza è fatta di non tutelati dall'articolo 18 sui 23 milioni e mezzo di lavoratori italiani, a furia di non vedere questa cosa l'articolo 18 è diventato un totem contrapposto. Da una parte c'è chi ideologicamente pensa che solo così facciamo più occupazione di massa, dall'altra c'è chi dice che bisogna estendere quel regime di tutela a chi non ce l'ha. Probabilmente hanno torto entrambi, perché come sempre bisogna vedere le cose nel mezzo, bisogna soprattutto portare il sostegno del reddito a chi perde il lavoro, ma non nel lavoro come era e dov'era. Questa è la grande sfida. E peraltro però questa antitesi si vede anche un po' oggi sui giornali, perché se tu prendi il Fatto, c'è il commento di Telese che dice Cofferati e Ichino, che e comunque io farei leggere, direi ai nostri ascoltatori di leggerlo, perché c'è un divertente Cofferati che ricorda come Ichino fosse alla propria sinistra nella CGIL, era un ingraiano. Allora Ichino un po' si arrabbia a questa ricostruzione. E dall'altra parte c'è il Corriere invece, dove Pierluigi Battista dice questa cosa di dire la durezza con cui si addita nel ministro Fornero il nemico di classe è una vecchia roba, insomma, di sinistra un po' così. E dall'altra parte il Corriere svela però che il ministro sarebbe incontrato con Landini. Con Landini. Landini è leader della FIOM, vale a dire la cosiddetta ala più dura, più radicale, se si vuole, del sindacato della CGIL. E tra l'altro il ministro Fornero racconta appunto il Corriere con Enrico Marro a pagina 3, si è detta proprio stupita da un linguaggio di un brutto passato, e sappiamo tutti a che cosa si riferisce, certo, il ministro Elsa Fornero, usato contro di me. Si riferisce all'intervista di Susanna Camusso, che ha anche detto da una donna un accanimento del genere contro i lavoratori non me lo sarei aspettato. Tra non è che Bonanni, che definendola maestrina, ci è andato leggero. No, infatti. Tra l'altro il Corriere fa una pagina dedicata a questo, a pagina 6, la firma Maria Luisa Agnese, nella quale mette i profili di, sono tre donne che si dovranno confrontare sul tema centrale del mercato del lavoro, vale a dire Susanna Camusso, leader CGIL, Marcegaglia, presidente di Confindustria, e appunto Elsa Fornero, ministro del welfare. Insomma, interessante anche questo. E anche perché c'è questa lettura visione, in cui si dice la Maria Luisa Agnese, che provengono, leggo, da gavette solide, diverse ma da gavette solide, sono donne che si sono fatte, insomma, battendosi contro il pregiudizio, e poi il fatto che si trovino ad accapigliarsi è ovviamente la testimonianza che non è il fatto della natura femminile che unisce, perché i punti di vista restano diversi. No, certo, ovviamente la politica anche di fronte all'articolo 18, il partito, tu mi confermi Oscar, più, se si può dire, in crisi su questo è il Partito Democratico, dove si scontrano le due anime, appunto, del senatore Ichino. Abbiamo letto anche uno stralcio dell'intervista al Sole 24 Ore, che dice sì, la riforma del lavoro va fatta, lui vuole la riforma del lavoro con la flex security alla danese, dove tutti sono assicurati, tutti con maggiore flessibilità però allo stesso momento. E dall'altra parte ci sono Stefano Fassina, per esempio responsabile economico del partito, oppure Cesare Damiano, che invece puntano magari a essere più critici rispetto a questa riforma. Insomma, il Partito Democratico è di fronte a una svolta interessante. Ma su Corriere addirittura Monica Guerzoni dice che Bersani preferirebbe prendere tempo, perché dice non solo il PD è diviso, c'è un articolo a pagina 5 trovato su Corriere della Sera di oggi, dice proprio esplicitamente che il segretario del PD preferirebbe che il governo ci andasse un pochino più calmo, perché altrimenti le esplosioni sotto gli si animano un po' troppo animatamente. Lui ha bisogno di comporre le posizioni interne. Tra l'altro fantastico, Oscar, un ascoltatore, perché vedi, in effetti tu hai detto la maggior parte dei lavoratori italiani non sono sotto il cappello, l'ombrello dell'articolo 18. E infatti un ascoltatore di 32 anni ci scrive: io ho tutele zero, mi spiegate che cos'è l'articolo 18? L'articolo 18 è lo statuto dei lavoratori, è quello che fissa la soglia dei 15 dipendenti come la soglia sopra la quale, quindi nelle aziende con più dipendenti, c'è un regime coperto e garantito, sostenuto per i licenziamenti, sia per quelli individuali, quelli discriminatori non sono possibili per nessuno, certo, individuale. Licenziamento va fatto solo per giustificato, esatto, motivo. Esatto, giustificato motivo individuale, c'è una procedura contro, e per quelli anche collettivi per ragioni economiche, cioè per razionalizzazione aziendale. Paradossalmente in Italia è molto più facile, ai sensi dell'articolo 18 oggi vigente degli accordi poi tra parti sindacali, fare le razionalizzazioni nei grandi gruppi per ragioni economiche, piuttosto che invece nei piccoli e medi, dove la questione diventa più complicata, e soprattutto è complicato fare dei licenziamenti su base individuale ed economica, perché a quel punto si va all'impugnativa e il giudice del lavoro, la tutela è prevista appunto per l'articolo 18 sopra i 15, di solito ti reintegra, e quindi diventa un costo non certo per le imprese. E allora, Vauro, prima pagina del Manifesto, c'è un operaio che prende il ministro Elsa Fornero, la mette a mo' di bebè e la sculaccia. Facciamola piangere, quante volte te lo devo dire, l'articolo 18 non si tocca, intanto ciaff, ciaff, ciaff e la sculaccia. Vabbè, facciamola piangere poi su quel pianto del ministro Fornero, chissà quanto continueranno, la satira ovviamente ci potrà sguazzare. La satira ci potrà sguazzare, però non vorrei che Mauro piangesse perché è morto Kim Jong-il in Corea. Come, hai visto l'annunciatrice che dava in maniera pacata l'annuncio? Sembrano quasi le domande di Fazio a Corrado Passera, su cui molti giornali oggi si interrogano. C'è un Oscar Giannino oggi graffiantissimo, tra l'altro su Passera credo che tu abbia trovato il titolo che più ti ha sconvolto questa mattina, positivamente, sì, a pagina 2 del Fatto, a furor di Passera, perché ecco, Passera vuole forse, sì, forse vuole, no, il Fatto evidentemente, in politica, il Fatto, cioè, evidentemente teme questa cosa, perché gli dà un grande rilievo sia in prima pagina che a pagina 2. Perché hanno preso questa frase di Passera da Fazio: occuparsi del bene comune è il più bello dei mestieri. Che vuol dire? Vuole rimanere in politica Passera? Potrebbe dopo anche voler dire che vuole tornare a fare il banchiere, che come noto lo fanno sopra. Per benevolenza, certo, mica per fare i soldi, che vuol dire a Milano? Parliamo dell'IMU. Vedete, oggi è graffiante. Tra l'altro, oggi avremo anche un banchiere. Avremo il presidente dello IOR, Ettore Gotti Tedeschi, tra i nostri ospiti dopo, sì, le 9. Sì. L'IMU. Che è la Stampa, vedi, giornale della mia città, vedi, è praticamente uno dei pochi giornali che apre su l'IMU, la rivolta della Lega. La rivolta della Lega, come abbiamo detto, la Padania titola così: rivolta fiscale, decide il Parlamento padano. Perché ci sono dei sindaci, per la verità il primo è stato il sindaco di Vittorio Veneto, intervistato dalla Stampa pagina 2, Gian Antonio Dare, che dice: io, è già definito il sindaco crociato, io non voglio fare l'esattore di Monti, e dunque a Vittorio Veneto l'IMU io non la riscuoterò. Io suggerirei agli stessi ascoltatori di però di andare a pagina 3 della Stampa, dove c'è un pezzo di Marco Alfieri che spiega, dice: l'imbarazzo lombardo sul federalismo fiscale, la scelta dell'Aventino, veramente i toni sono da opposizione durissima, altro che Aventino quelli della Lega, tradisce la responsabilità della Lega degli ultimi anni. E poi sotto c'è una bella analisi di Raffaello Masci che dice: ma per i comuni comunque sarebbe un autogol, quindi non la fanno pagare. E poi come fanno? Ci sono alcuni sindaci come il sindaco di Varese Fontana che dice: io dal punto di vista dell'obiezione fiscale, sappiamo che la Lega fa l'obiezione fiscale anche contro il canone della RAI, contro adesso anche contro l'IMU, che poi è una tassa che hanno voluto loro in passato, ma comunque dice Fontana: ma come, io potrei essere d'accordo, ma che faccio, mi tolgo, certo, dei soldi che poi rimangono qui sul territorio? Su questo però ci vuole un attimo, se ci aiuta a far chiarezza, Oscar, perché il sindaco di Vittorio Veneto invece dice: ma che, sono tutti i soldi che vanno a Roma, poi tornano magari in minima parte chissà quando, quindi io non li prendo. No, aspetta, bisogna confermare questo, naturalmente riguarda più gli amministratori che chi ci ascolta come invece contribuenti, perché i contribuenti li dovranno cacciare i soldi, ma il problema è che il meccanismo con il quale è stato anticipato l'IMU rispetto al meccanismo precedente, che era trasferimento dell'ICI, che era stato abolito, ma c'erano dei fondi che lo Stato si era impegnato a dare ai comuni a copertura dell'ICI abolito in parte, ecco, tra copertura dell'ICI in parte che i comuni aspettavano e il nuovo meccanismo dell'IMU così stabilito, con le soglie di esenzione stabilite su prima casa e invece soglie di seconda casa più pesante, i comuni comunque ci rimettono un po' rispetto ai trasferimenti precedenti. Questo lo so perché proprio per Torino ho fatto il conto, è la dimostrazione. Quindi... però rimetterci un po' è un conto. Rimetterci tutto. Rimetterci tutto è un altro. Ma sai cosa dice il sindaco di Vittorio Veneto, intervistato dalla Stampa? Ma scusi, ci saranno conseguenze, verrà denunciato. Siamo in Italia, ci sarà sempre un'amnistia o un indulto, no? Beh, su questo devo dire che non ha proprio tutti i torti. Però non confondiamo l'eventuale amnistia svuota carceri, certo, perché sennò per una volta il Papa che ci ha dato dai detenuti. Oggi tra l'altro il ministro della giustizia Paola Severino fa un'intervista a Repubblica. Però dobbiamo fermarci, ci sono le informazioni sul traffico. Poi ripartiamo da qualche cosa che io ho trovato, che Oscar ha trovato. Ah, guardalo qua, Fabio Fazio, che tu dici, il graffio su Libero, no? Le domande in ginocchio di Fabio Fazio a Corrado Passi. Però anche sul Fatto Fulvio Abbate picchia parecchio. Sì, sì, sì, ma anche sul giornale, insomma, è stato molto criticato. In ogni caso, tra poco parliamo magari di evasione fiscale. Oscar guarda il cielo, non lo so, tra poco. Radio Day, speciale crisi. Eccoci qua, tra l'altro la soluzione per un paio di nostri ascoltatori è facile. Giannino for president, Giannino in rassegna stampa sempre. Come si potrebbe dire in maniera edulcorata. Forse la seconda è un po' più facile. Edulcorata, soffatti tuoi adesso. No vabbè, però la seconda è un po' meno complicata. Perché direi. Io mi sveglio sempre alle 5:30 e sono qua alle 6:20. E invece ti vogliono parola. Qua in rassegna stampa. Domani ci sarà ancora per questo secondo Radio Day, Radio 24 Day. E poi chi lo sa. No, un momento, non mettiamo limiti, esatto. Ecco. Allora, l'evasione fiscale oggi Repubblica fa pagina 1, 2, 3, Ettore Livini, via al non sbuffare, via non alzare gli occhi al cielo, via al controllo dei conti correnti, non ti arrabbiare, non ti dà. Ma no, però è evidente che se tutti i giornali vanno su altro e loro invertono la gerarchia delle notizie, perché loro hanno un programma ideologico su questo, questa è la conferma di quello che ti dico sempre. Vedete, basta parlare di questo. Ma perché è evidente, 2012, no? Ci siamo nudi di fronte al fisco, nudi. Oscar, c'è Serpico, che è questo acronimo per il controllo del cervellone della SOGEI, che controllerà i nostri. No, la fai apposta. No, perché io mi sono sposato una dirigente che lavora in SOGEI, non posso parlare su questo argomento, maledizione. Ah, ecco, cioè il classico conflitto di interessi. Conflitto di interessi, perché poi si rifanno su di lei, se io continuo a dire quello che penso, quindi non posso. Questo argomento, purtroppo, mi hanno indebolito. Lo Stato si è invischiato nella mia famiglia e ha indebolito la mia lotta. In maniera molto professionale, citiamo le pagine 2 e 3 di Repubblica e andiamo avanti. Però è giusto, perché è uno dei temi sui quali, non a caso, mi ha molto colpito che Corrado Passera, che ritorna su molti giornali, perché c'è chi dice che si mette in politica, c'è chi dice, come La Stampa per esempio, che ha un tono un po' diverso dal resto del governo e compreso dal ministro Fornero, perché per esempio Passera fa il professore e apre ai sindacati, le grandi ristrutturazioni non si fanno contro di loro. Però mi ha colpito la durezza con cui Corrado Passera in televisione, rispondendo a Fazio su questo tema dell'evasione fiscale, ha detto: noi non daremo tregua. Come sulle liberalizzazioni, ha detto, non daremo tregua. Sì, però sulle liberalizzazioni, purché non si tocchi il credito, da un ex banchiere naturalmente me lo aspetto, ma che si dica non daremo tregua da un ex banchiere sull'evasione fiscale, poiché per esempio le banche hanno inchieste aperte per come eludevano per centinaia di milioni sui Brontos di Unicredit, ma anche altre primarie banche, insomma è una cosa confortante da questo punto. In ogni caso, visto che si parla sempre di la crisi, questa è la dicitura, pagina 7 della Stampa, arrivano i maxi tagli, pare anche per i militari, gli uomini in servizio, scrive Francesco Grignetti, passeranno da 190 a 150.000, anche se siamo un paese di tanti alti ufficiali. No, è giusto, perché il modello della difesa a 190.000 uomini era improponibile da anni. Su questo posso dire una cosa, il sottosegretario Crosetto negli anni più volte andò da Tremonti a proporre dei tagli alla pianta organica alla difesa tra i militari e i 190.000, i carabinieri 110.000, i civili sono 330.000 in tutto. Il progetto era quello di scendere del 25%, e tutte le volte il tesoro disse no grazie. Ci sono forse delle sacche di resistenza. Parecchie, mi pareva di capire, sì. Senti, politica, solo te ne cito una. Berlusconi è andata a una cena di Micaela Biancofiore, deputata del PDL, e ha detto: se Marina, sua primogenita, si candida in politica, la diseredo. Però Berlusconi pare che dica: prepariamoci all'elezione. Allora il tema è questo: regge Monti? Non regge Monti? No, il tema è che evidentemente Berlusconi non ha affatto davvero preso l'idea che lui non si ricandida. Questo è il punto. Io la leggo così, quella frase. Quindi fossi in Alfano, un ulteriore indebolimento di una leadership che già all'interno del suo stesso partito molti criticano perché non è abbastanza coraggiosa e risoluta. E quindi un vero punto interrogativo. Ecco perché poi si agitano anche sulla stampa un po' prima del tempo le ipotesi che possa essere Corrado Passera l'emanazione politica che prende voti anche da un PDL un po' smarrito, però la frase di ieri, la diseredo, non è tanto sulla figlia, è su se stesso, che vuol dire che non è proprio, non ha proprio digerito questa cosa. Senti Oscar, ci sarebbe da dire, cioè, trovate molto sui giornali ovviamente della scomparsa, della morte di Kim Jong-il, che è un problema oltre agli articoli di colore e il problema per Vauro. Vorrei suggerire anche a pagina 6 del Fatto il resoconto dell'udienza, della terza udienza del processo di Montezemolo sugli abusi edilizia ad Anna Capri. Perfetto. A proposito di colore. Per Anna Capri. Poi c'è tutta la vicenda del calcio scommesse che ritorna. Oscar. No, voglio dire, hanno il mito Robico Doni che cade. Che Vittorio Feltri oggi scrive in prima pagina: io non ci credo, non credo che sia un farabutto. Per me Doni è un amico. L'hanno arrestato, l'ex capitano dell'Atalanta, ha tentato una goffissima fuga. Cioè gli hanno detto: Doni, apra la porta. E lui così, no, Doni, siamo della Guardia di Finanza. E lui è andato in mutande giù nel garage, nella villetta, è salito in macchina. Ha cercato spaesato di fuggire. È una vicenda in realtà che sui giornali è molto ben raccontata, con anche telefonate in cui parlavano in falsetto per cercare di depistare, cioè cose anche comiche, devo dire, o tragicomiche. Sì, c'è però una persona che emerge positivamente da questa vicenda. La Stampa vi dedica una pagina, ma su tutti i giornali è raccontata la storia di un calciatore, Simone Farina, di 29 anni, gioca nel Gubbio in B. Avvicinato da tutti per cercare di comprare una partita, ha detto banalmente quello che possono dire in libera scelta, in libertà, molte persone: io queste cose non le faccio, punto a capo. Oscar, non è da tutti, insomma. No, non è da tutti, soprattutto perché la sistematicità di questi scandali nel calcio prova che il calcio italiano resta a prova di ogni dissodamento, voglio dire. E forse spiega anche perché Della Valle e Guido Rossi continuano a inseguirsi oramai con ricorsi giudiziari l'uno con l'altro, vicende che a distanza di tanti anni non sono chiarite. Calciopoli, esatto. La Juventus che chiede i danni e così via. Abbiamo 30 secondi per chiudere la rassegna stampa, ma poi andiamo avanti fino alle 10 in questo Radio Day. Oscar, c'è crisi per tutti. C'è crisi per tutti, ma libero, proprio libero a pagina 15. Orfane del Bunga Bunga, fine ingloriosa delle olgettine in discoteca a caccia di fortuna. Il telefono loro ora non squilla più. Vabbè, tu hai qualche cellulare di no, io non Barbara Fagioli, i cellulari, ma soprattutto Maristel Polanco. La Polanco sì, ogni tanto la Zanzara sentiamo, però diciamo, da quello che avevo letto non avevano ricevuto abbastanza a testa, insomma. Sì, se hanno messo da parte qualcosa, se hanno dissipato, fatti loro. Il monito della crisi, a cui oggi noi apriamo i microfoni anche per gli esperti, poi più tardi per tutti quelli che vogliono sapere, è appunto non dissipare, tenere, continuare a risparmiare, a investire e avere un po' di fiducia malgrado le condizioni siano purtroppo quelle col segno meno. E allora intanto andiamo a sentire il giornale radio e poi riprendiamo con Oscar Giannino fino alle 10.